19. Minestra di carne passata. Vitella di latte magra, grammi 150. Prosciutto grasso, grammi 25. Parmigiano grattato, grammi 25. Pappa, fatta con midolla di pane, acqua e un pezzetto di burro, 2 cucchiaiate. Uova numero 1. Odore di noce moscata, sale quanto basta. Tritate prima la carne e il prosciutto con un coltello a colpo, dopo con la lunetta, poi pestateli nel mortaio e passateli per istaccio. Fatene quindi tutto un impasto con l'uovo e gli altri ingredienti. Quando bolle il brodo, gettatelo a cucchiaini o passatelo da una siringa per dargli forma graziosa e dopo una bollitura sufficiente a cuocerlo, servite la minestra. Questa quantità basta per 4-5 persone, ma potete farla servire anche per 12 mescolandola in una zuppa. Prendete allora pane finissimo del giorno avanti, tagliatelo a piccoli dadi e rosolatelo in padella alla svelta con molto unto. Quando siete per mandare in tavola, ponete il detto pane nella zuppiera e versate sul medesimo la sopra descritta minestra di carne passata.